Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Ho deciso di trasferirmi nelle terre dei Savoia. In realtà non sono molto lontano da Torino, sono alla Venaria Reale, perché vorrei fare un percorso anche nelle prossime puntate dedicate alle grandi regge sabaude. Innanzitutto perché tutte queste grandi regge sono state recuperate negli ultimi 20 anni, erano quasi tutte malandate, diroccate, piene di difetti, e con uno sforzo corale e molto importante le autorità dello Stato, della regione, civiche, le grandi banche, eccetera, si sono tutte messe d'accordo per restaurare queste regge sabaude, e Venaria è stata forse il più importante recupero di questa serie importantissima. La Venaria Reale, il nome stesso, vuol dire che era la riserva di caccia. Infatti Carlo Emanuele II, che era il duca di Savoia alla metà del 600, decide di far costruire al suo architetto di fiducia, Amedeo di Castellamonte, un castello di caccia, e addirittura davanti un intero paese che aveva tra l'altro la forma nella pianta dell'ordine dell'Annunziata, del collare dell'Annunziata, che era l'onorificenza che i Savoia davano alle persone più importanti. Questo castello venne dedicato alla dea Diana, naturalmente alla dea della caccia, e poi conobbe una strana vicenda costruttiva, perché ad ogni duca e ad ogni re sabaudo che si succedeva sul trono conobbe degli ampliamenti. In particolare, alla fine del 600 si chiamò un architetto, Michelangelo Garove, per ingrandire enormemente il castello e costruire due ali che venissero in avanti lungo il cortile. Poi però l'architetto morì, e allora si chiamò niente meno che Filippo Juvarra, il più grande architetto di Torino, che in una di queste gallerie che già Garove aveva tracciato decise di fare la grande galleria, che è uno dei posti più straordinari di questo castello. E poi, allontanatosi Juvarra, che andò a lavorare in Spagna, Benedetto Alfieri e gli altri architetti collegarono i vari edifici che Juvarra aveva già pensato: la cappella di Sant'Uberto, le scuderie e le citroniere. E oggi il castello rivive anche nel suo parco, che è stato completamente ritrovato in mezzo ai campi, perché era sparito il parco di Venaria Reale, e sono state tracciate le allee, sono stati portati i corsi d'acqua, e oggi noi possiamo passeggiare sotto i roseti in fiore e goderci la meraviglia di questo castello.